140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Il cinema nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinema Anteo, Milano. In sala, tra 5 minuti in scena. Tra finzione e verità, la storia di un'attrice e la mamma. Gianna Coletti con la regista Laura Chiossone. Sì, è un incontro innanzitutto tra due persone, tra me e Gianna. Ci siamo conosciute sul lavoro, in diverse situazioni, e io mi sono un po' fissata su Gianna. Volevo ad ogni costo fare delle cose con lei. Infatti ti ho proposto a ripensarci una serie di cose improbabili che per fortuna nessuno ci ha accettato. Finché cosa succede? Che Gianna comincia a raccontarmi, forse un po' per condividere, per liberarsi un po', per spirito di condivisione femminile, in delle mail molto particolari, la sua relazione con la sua mamma a carico. Ed erano delle mail fantastiche, nel senso che facevano ridere, ma la situazione era tragica, non era da ridere. Quindi sono rimasta colpita da questo contrasto e gli ho chiesto di andare a conoscere sua mamma Anna. E lì è scoppiato l'amore, perché Anna è Sid Vicious che parla in milanese, cioè è una persona, Gianna ha una personalità forte, però insomma sua mamma gli dà della biada, come si dice, cioè riesce, è proprio milanese in questo, perché unisce un sarcasmo anche un po' crudele con un melodramma, con una capacità di attrice mancata, perché non ha fatto attrice Anna nella vita, ha fatto tutt'altro, però evidentemente aveva un talento naturale che in qualche maniera ha trasmesso alla figlia. E quindi gli ho chiesto di girare delle immagini della loro vita quotidiana. Ho fatto una piccola intervista a Gianna chiedendole di raccontarmi le sue difficoltà e le ho mostrate a Marco Malfi della Rosso Film, e che mi ha detto: fermiamoci, cioè facciamo un film, non un documentario su di loro, perché è un tema troppo importante, loro due lo vivono in un modo troppo interessante, troppo particolare per non meritare un respiro più ampio. Gianna, ma come si decide di aprire la porta e dire va bene, entrate in casa e filmate? Ma guarda, in modo molto semplice, intanto, ma io non ho pensato a questa cosa, no? Ho pensato però, caspita, alla bellezza, dico, a me rimarrà un ricordo di mia madre straordinario, poi in un determinato periodo, perché lì mia mamma, un anno e mezzo fa, la mamma veramente era ancora 2000, Certo, farlo adesso non avrebbe senso e sarebbe anche per me molto doloroso vederlo. Invece lì mia madre è pimpante, spiritosa e simpatica, sono magari io che arranco, no? Perché sa chi ha questo tipo di situazione, sa benissimo che non sempre è facile, no? Infatti molte donne che hanno visto il film e poi ci vengono a ringraziare perché si riconoscono e vedono anche la fatica del vivere vicino a una persona che, non so, appunto, magari non è più autonoma, che ha anche il problema della vista, perché mia madre non vede, per dire, no? E però mi piace vederla ancora così bella, forte. Questo per me è un ricordo meraviglioso, cioè rispetto al filmino che uno si fa a casa è completamente diverso. Io che faccio? Ringrazio la mia mamma perché ho fatto il film e grazie a lei. Beh, uno spaccato di vita, ragazzi, ma voi vi rendete conto che cosa incredibile? Che un'attrice del film ad un certo punto prende, va a casa sua ed è realmente la sua casa con la sua madre vera, no? Ed è uno spaccato di verità, secondo me, straordinaria, perché mia madre, con la memoria corta, intanto non si ricordava che stavamo girando un film, anche se lei era felicissima, perché l'importante per lei è essere nel centro di tutto. E poi, col fatto che non vede, manco vedeva una cinepresa, ecco. Perciò la verità è totale, per me, un'esperienza meravigliosa. A mezzanotte va la ronda del piacere. Nell'oscurità ognuno vuol godere. Abbiamo poco tempo, abbiamo 2 settimane per montare lo spettacolo e quindi conto su di voi. Sai che devo provare uno spettacolo? Sai di che cosa parla? Di che cosa? Parla di una figlia, che sarei io, che deve accudire questa madre anziana che le dà un sacco di problemi. Gianna, anche tu però hai raccontato tanto della tua vita, del tuo passato, dei tuoi esordi da bambina. Noi ti abbiamo visto in tanti ruoli negli anni, perché magari il nome non dice subito chi sei, perché hai fatto tantissime cose, il volto sì. In tanti stanno dicendo che ricordi Mariangela Melato, i milanesi ti ricordano per te stessa perché ti conoscono benissimo. Però hai raccontato anche tanto di te, messo tanto della tua vita, non solo del rapporto con tua madre. Beh sì, in effetti, siccome è una vita abbastanza di torture, mia madre mi ha torturato da bambina, perché voi ve la ricordate? No, dico, voi la ricordate? La grandissima, meravigliosa Anna Magnani, bellissima, col film di Visconti, che da bambina, sta bimbetta, la voleva portare. Ecco, mia madre è stata esattamente così, mi ha messo sotto duramente, e perciò certo che c'è molto, molto della mia vita, tutto sommato. Hai visto che bella soddisfazione do a mia madre? Meglio tardi che mai, perché lei questo voleva. Certo, è arrivato con qualche decennio di ritardo, ma non perdiamo la speranza. Questi ultimi 15 anni per me sono stati terribili. No, proprio per me, perché mia madre non se n'è mai resa conto, o meglio, non ha mai voluto rendersi conto di quello che le stava accadendo. L'ultimo anno poi è stato proprio devastante, perché un giorno sì, un giorno no, mia madre cadeva, la raccoglievano i vicini, arrivavano i pompieri. No, le badanti c'erano, però lei le cacciava, non le accettava, andavano lì a farle da mangiare, poi dormivano a casa mia. Io ero talmente angosciata, facevo dei sogni incredibili, sognavo in continuazione. Sognavo l'acqua, scura, torbida, agitata. E poi c'è una cosa importante in questo film, che finalmente si fanno tanti dibattiti sulle donne al cinema, in televisione, l'immagine delle donne. Qui c'è l'immagine delle donne più pura, più vera, di tutte le generazioni di donne. Beh, facile, decidevo io che sono una donna, quindi nel senso, se metti una donna, diciamo, in posizioni decisionali, cioè, ho remato un po' a nostro favore, no, scherzo. Io in realtà lo faccio quasi inconsciamente di parlare di femminilità, anche rivedendo i miei lavori del passato, i cortometraggi, insomma si parla di quello che sia vicino, la storia che racconta una storia tra Via Savona e Via del Giambellino, e la femminilità è ciò che mi è vicino, inevitabilmente mi è un tema caro, perché nelle donne in generale c'è un coraggio di onestà, cioè di esporsi, di mostrarsi, e un regista è questo che interessa, la domanda che facevi prima Gianna, un grande attore è quello che non è tanto mostra, ma usa la propria vita, nel senso che usa le proprie emozioni per trasmetterle al pubblico, per trasmettere cose importanti al pubblico, e questo è un grande attore. Hai citato Via Savona, Via Giambellino, Milano, allora, il cinema è Roma, lo sappiamo, a Milano ci sono tante cose belle, ma il cinema è sempre romano. Invece questo film ci dimostra che il cinema, che Milano può essere anche cinema. Beh, sì, grazie a Dio ogni tanto qualcosa succede anche qua, nel senso che ce lo siamo un po' strappate con le unghie e con i denti il fare il cinema a Milano. Io lo faccio anche a Roma, e se mi chiamano non è che dico di no a niente, accetto tutte. Ma appunto, ripeto, uno parte da quello che conosce, da quello che ha di fianco, e quindi poi insomma Gianna e sua mamma sono Milano moralmente, anche come forza, come tipo di sarcasmo autironico, di capacità di essere generosi e autironici al tempo stesso, quindi in questo senso il film trasuda milanesità. Una notte sogno mia madre, anzi per l'esattezza sogno la Berni di mia madre, lei la chiamo così. Il giorno dopo risogno mia madre in camicia da notte, seduta sul letto. Vicino a lei un bambino piccolo in fasce, sorridente, sdentato. Ma come ha fatto mia madre a partorire alla sua età? E io? Mamma! Momento, mamma! Gianna, questo film è importante per te come attrice, per gli spettatori che possono rivedersi e rivivere magari certe esperienze personali. Inevitabilmente diventi un po' un simbolo, un punto di riferimento. Ti è già capitato di sentire la vicinanza? C'è anche un blog, Mamma Carico, nel quale le persone si avvicinano a te anche per condividere un'esperienza. Beh, certo, ripeto, quando abbiamo fatto il film, che ha partecipato a parecchie rassegne e ne ha vinte anche, ha vinto anche dei premi belli, interessanti. Dopo la proiezione, noi eravamo presenti, Laura Chiossone, io, eccetera, tantissime donne venivano veramente a ringraziarci e, ripeto, la soddisfazione è stata enorme. Dopodiché, forse una signora o due hanno scritto una lettera molto bella a Laura e da lì è partita l'idea del blog. E infatti ho aperto questo blog, Mamma a carico, sottotitolo Mia figlia ha 90 anni. Bene, io lo tengo in modo molto ironico perché racconto degli episodi della mamma sempre con questo taglio così di leggerezza, no? Naturalmente inserendo poi anche delle considerazioni un po' più profonde, no? Sennò sarebbero dei raccontini così. E mi scrivono tantissime persone e sulla pagina Facebook, che magari lì il commento è più immediato, ma anche nel vero e proprio blog ricevo lettere. Sono lettere d'amore molto spesso, però anche lettere di dolore molto sofferte, e parlarne è importante perché poi a noi, quando tu sei vicino e senti che la situazione man mano sta degenerando, sta peggiorando, beh, ti viene una paura pazzesca, e invece il parlarne ti aiuta tantissimo. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter e giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Cinema Anteo, Milano. La rivelazione italiana a Cannes finalmente in sala. Salvo è storia d'amore, mafia e miracolo. I registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Quando abbiamo deciso di scrivere questa storia, di scrivere una storia a Palermo, palermitana, con delle figure anche riconoscibili, diciamo, di un certo tipo di narrazione, abbiamo definito il mondo nel quale dovevamo ambientare questa storia. Il mondo per noi è un mondo di ciechi, un mondo che volontariamente sceglie di non vedere, perché vedere, imparare a vedere, non solo è una cosa abbastanza complicata, ma anche potenzialmente rischiosa, e soprattutto ti obbliga anche a un cambiamento, a cercare altro da quello che ti è dato, da cui sei circondato. Allora, ecco, questo mondo di ciechi volontari è stata la base sul quale abbiamo costruito la storia. E allora abbiamo detto, ma in un mondo così, in un mondo senza una speranza di redenzione, in un mondo dove i miracoli non accadono, un miracolo può ancora accadere? Allora, partendo da questa domanda, abbiamo provato, abbiamo costruito due figure emblematiche per noi di questo mondo. Quella di un cieco da un punto di vista morale, cioè un killer di mafia, una figura riconoscibile ed emblematica di questo mondo. E poi una ragazza apparentemente innocente, dolce, cieca invece fisicamente dalla nascita, anche se poi quando tu osservi bene questa ragazza, quando la incontri nel film, capisci che proprio innocente e ingenua non è. Qualcosa in comune con questo protagonista in realtà ce l'ha. Allora abbiamo pensato abbiamo deciso che proprio nella collisione violenta di queste due anime morte scoccasse, diciamo, la più imprevedibile delle scintille, cioè la scintilla di una vita. Erano anni che non venivo qua. Dai tempi belli. Vattene. Non è contento della visita. Che credevi? Che non lo scoprivamo dove andavi? A un epiciotto. Ci siamo. Vediamo chi ci aspetta. Vattene, non è cosa tua. La sicilianità è un altro elemento fondante, imprescindibile. Voi avete vissuto anche fuori dalla Sicilia, quindi è stato una sorta di ritorno. Perché questa necessità, questo bisogno, questo desiderio? Sì, siamo entrambi palermitani. Abbiamo lasciato Palermo quando avevamo circa 25 anni. Siamo andati a studiare fuori, abbiamo studiato cinema a Torino ed è lì che ci siamo conosciuti, io e Fabio. A lungo abbiamo lavorato su storie di altri, sia come sceneggiatori sia come consulenti allo sviluppo dei copioni. Quando si è trattato di sviluppare un progetto che fosse interamente e profondamente nostro, il fatto di tornare in Sicilia non posso neanche definirla una scelta, è stata quasi un'attrazione naturale, perché l'urgenza di raccontare la città era fortissima, la rabbia che ci ha portato lontano da Palermo era allo stesso tempo la rabbia che ci consentiva di tornare e di raccontare quella città, seppure rifuggendo dagli stereotipi, anzi mettendoci come stella polare l'idea di rifuggire dagli stereotipi narrativi in cui negli ultimi anni soprattutto certa fiction televisiva ha affondato la Sicilia, cercando di, diciamo, di anestetizzare la realtà attraverso figure estremamente rassicuranti. Questa ricerca ci ha portato a ritornare lì e anche a lavorare con dei siciliani come noi, come Daniele Cipri, il direttore della fotografia, Marco Dentici, lo scenografo e i tantissimi collaboratori che abbiamo trovato in Sicilia e che ci hanno restituito il loro grandissimo talento. È stato là sotto con gli altri, vero? Ma la sorellina non l'hai perché? Dammela. Dammela. E ce la andiamo tutta a casa. Raccontare la mafia per immagini è affascinante ma complesso, sia perché è stata raccontata già con un ventaglio di tante opzioni, sia perché poi tutto questo porta sempre con sé delle valutazioni di carattere morale da parte degli spettatori, da parte della critica. Sembra sempre come se certi argomenti non potessero essere toccati se non poi trascinando appunto valutazioni morali o polemiche. Voi come vi ponete da questo punto di vista? No, per noi era importante provare proprio, come diceva Antonio, a scloroformizzare, diciamo, alcuni luoghi della narrazione tipici della Sicilia. Naturalmente quello dell'ambiente mafioso, il contesto mafioso, i personaggi di mafia, insomma, hanno creato la fortuna di tantissimi autori. Hanno creato anche, diciamo, delle false e pericolose mitologie. E allora il tentativo per noi era confrontiamoci con una figura tipica di questo mondo, però proviamo a restituire un senso di realtà profondo alle cose che vogliamo raccontare, proviamo a raccontarlo fuori da certe aspettative, fuori da canoni, da stereotipi, da cliché. Questo è stato per noi molto importante. Quindi poi non ci siamo preoccupati molto in realtà di quale sarebbe potuta essere l'accoglienza di un simile personaggio, anche perché un percorso, l'abbiamo costretto un personaggio simile a un percorso abbastanza particolare. Speriamo che veramente, diciamo, questo personaggio, tramite questo personaggio la gente possa compiere un viaggio di un certo tipo, per cui non è un problema di giudicare questa figura o non giudicare, ma è importante capire qual è il senso profondo di questa esperienza umana, di questo incontro e di questa grazia che questo incontro dischiude, ecco, che allontana la storia da una tipica storia di mafia. Dovresti fare come ti ha detto. Ammazzami. Torna da loro. Tanto sai quello che sei. Hai fame? Certo che ho fame. Il viaggio di Salvo sta partendo adesso, perché vi sta facendo, tenendo compagnia da 5 anni, ma ora con l'approdo in sala è veramente il decollo, è ora. Quindi so che è prematuro chiedervi se avete altri progetti, ma nella vostra testa ci sono ancora storie siciliane oppure avete voglia di esplorare mentalmente, cinematograficamente altri mondi? Il viaggio di Salvo, dici bene, parte adesso. Ti confesso che quando siamo arrivati a Cannes, dopo 5 anni di sviluppo di questo progetto, malgrado la grande accoglienza, l'amore che abbiamo trovato dal pubblico, dalla critica, tra di noi ci siamo detti ora basta con Salvo, perché siamo stati 5 anni in compagnia di Salvo e di Rita. Vorremmo parlare d'altro. Però diciamo quello che è successo al film, e ovviamente ne siamo felicissimi, ci consente adesso di uscire in Italia, ma il film è stato venduto in tutto il mondo e quindi lo dovremo accompagnare. Il film uscirà in ottobre in Francia, poi esce in Inghilterra, in Irlanda, in Brasile, in Australia. Lo accompagneremo, è giusto farlo. E quindi per qualche mese saremo ancora in compagnia di Salvo e di Rita, e ovviamente ora ne siamo felici, a parte diciamo lo scherzo, e poi sì, ci chiuderemo in stanza, e prevedo che la nostra storia sarà di nuovo di ambientazione siciliana, sebbene non ne siamo sicuri. Abbiamo un paio di idee, magari ne verrà fuori una terza. Non è detto che sia di contesto mafioso, ma è molto probabile che sia ambientata in Sicilia. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.